Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune informazioni di servizio che agevolano il lavoro di tutti noi. La prima è quella relativa al nostro sito radio24.it. Lì potete trovare e scaricare in tempo pressoché reale tutte le puntate di tutte le trasmissioni della nostra radio e interloquire con i giornalisti che hanno un blog. Io ce l'ho, lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri. Lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore online e in questi giorni troverete degli approfondimenti relativi anche al caso che ora andremo ad affrontare. L'ultima informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail, alla quale rivolgervi: un abuso al giorno @radio24.it. Allora, cari radioascoltatori, voi chiamate la legalità tanto quanto l'amo io e mi auguro ancora di più. Segnatevi questa data: il 2 marzo del 2010 il Tribunale di Castrovillari in provincia di Cosenza non soltanto ha condannato per una serie di simpaticissimi reati quali estorsione, usura aggravata dal metodo ndranghetistico e chi più ne ha più ne metta, decine di imputati, ma ha sancito un principio fondamentale, vale a dire: gli imprenditori, attraverso la loro rappresentanza politica, attraverso Confindustria, in questo caso Confindustria Calabria, non soltanto hanno diritto a costituirsi parte civile, ma hanno anche diritto ad un risarcimento del danno che può essere simbolico quanto vogliamo, ma che non ha prezzo. Perché? Perché in buona sostanza il Tribunale di Castrovillari ha ammesso, insieme al Tribunale di Cosenza, al giudice per l'udienza preliminare, ha ammesso che il danno d'immagine che subisce l'imprenditoria, che subisce la società calabrese per la presenza dell''ndrangheta devastante che distorce il mercato, che distorce la concorrenza, ebbene questo danno d'immagine deve essere risarcito. Insomma, sulla linea di quanto sta facendo danni Confindustria Sicilia e poi Confindustria Nazionale, le imprese, gli imprenditori e gli organismi di rappresentanza stanno alzando finalmente una barriera enorme contro le cosche. Di questo noi oggi parliamo, perché un abuso enorme alla dignità umana che si cerca di, ciascuno con le proprie forze, di sanare quanto più possibile. Ed è per questo che io do il buongiorno ad Umberto De Rose, presidente di Confindustria Calabria. Buongiorno De Rose. Buongiorno a lei. E a Renato Pastore, che è il presidente di Confindustria Cosenza. Buongiorno Pastore. Buongiorno a lei, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, io partirei con De Rose. Qual è l'importanza di questa sentenza, De Rose? Ma credo che lei l'abbia espressa in maniera egregia. Questa è una sentenza che, a mio avviso, fa giurisprudenza in maniera significativa, perché per la prima volta una Confindustria regionale, attenzione, parliamo di un livello, quindi di un secondo livello, perché le confederazioni industriali sono diciamo suddivise fra territoriali e regionali. La territoriale è l'associazione che ha il rapporto diretto con l'associato, a cui quindi l'impresa si associa, mentre la regionale associa le associazioni territoriali, quindi è un organismo di secondo livello, un organismo di rappresentanza politica. Ora, all'interno di questo organismo, il Consiglio Direttivo nell'anno 2007 ha deliberato la costituzione di parte civile in tutti i processi per estorsione, usura, tutti i processi in cui siano coinvolte imprese che subiscono diciamo reati o attività criminose da parte dell''ndrangheta. Ecco, in questo ovviamente affiancati in questa decisione, chiaramente è nata all'interno del Consiglio Direttivo, che è composto dalle associazioni territoriali, dai rappresentanti delle associazioni. Assolutamente, quindi una cosa condivisa. A questo condivisa punto tra tutte le associazioni, esatto, che in un certo senso si sono posto un obiettivo, qual era? Quello di affermare un principio che, indipendentemente dall'atteggiamento che assume l'imprenditore rispetto alla vicenda che lo riguarda, c'è un interesse superiore, che è quello dell'interesse del mondo della rappresentanza, a che il territorio calabrese in questo caso evidentemente, o in generale, diciamo, debba essere ovviamente tutelato da quel danno d'immagine, quel danno alla possibilità di intraprendere che è costituito appunto dall'attività criminale. Benissimo. In particolare in regioni in cui ovviamente queste attività criminali sono storicizzate ed hanno un forte impatto sul territorio. Benissimo, prima di tornare a lei De Rosa, io vorrei chiedere invece al suo collega Renato Pastore, presidente di Confindustria Cosenza, qual è, diciamo così, la collaborazione e la spinta che proviene dal territorio e quindi dalla provincia di Cosenza, perché Castrovillari e gli imprenditori vessati si trovano a Cassano sullo Ionio, quindi nella sua provincia, qual è la spinta di legalità che proviene, il percorso di accompagnamento che proviene da una Confindustria invece di primo livello, quale è appunto quella territoriale di Cosenza? Guardi, come ha detto bene De Rose, noi abbiamo affidato la rappresentanza politica al regionale per dare più forza all'iniziativa. Certamente, come nel caso dell'episodio di estorsione, di tentata estorsione, si ricorda al De Tommaso, al calzatore di Fini, certo, abbiamo già parlato insieme, e anche in queste vicende la sentenza di oggi dà maggiore forza perché le imprese locali si sentono più tutelate, ma le dico di più, anche le istituzioni in questo momento, le istituzioni che le parlo di tribunali, questori e quant'altro, cominciano a rapportarsi anche con le associazioni affinché nei processi non ci si possa coordinare e si possa al massimo livello possibile tentare di usare l'arma di costituzione di parte civile, che spesso non avviene, da parte addirittura di colui che ha subito il danno. Invece questo rafforza l'azione repressiva delle forze dell'ordine. Assolutamente, come spesso amo ripetere, per, come dire, creare una catena di legalità che nel nostro paese manca, c'è bisogno di tantissimi anelli, ciascuno deve metterne uno di anello. Confindustria nazionale ne mette uno, le confindustrie locali ne mettono un altro, gli imprenditori ne mettono un altro, i magistrati, le forze dell'ordine, i giornalisti. Solo così sarà possibile nel tempo sconfiggere questo fenomeno che è tipicamente italiano, anche se non solo ovviamente, che rende, mortifere e asfissia lo spazio vitale di tutti, della società e dell'economia. Allora, De Rose, le chiedo questo, diciamocelo chiaramente, una decisione del genere, una decisione coraggiosa da parte sua, da parte di Confindustria, da parte di tutti coloro i quali si impegnano per la legalità, che cosa vi aspettate al di là del gioco di squadra che farete? Ci saranno delle reazioni da parte di queste maledette cosche che inquinano la società calabrese? Beh, innanzitutto il problema è che sicuramente ad ogni azione corrisponde una reazione. È chiaro che ed è evidente che in una situazione in cui rispetto a questi temi non si era mai affermato il principio che le Confindustrie si costituissero parte civile, e in una situazione in cui evidentemente questa costituzione comporta una condanna ad un risarcimento del danno e quindi tocca il malavitoso in uno degli aspetti che più gli interessa, che è quello appunto economico. Il portafoglio, insomma. Esatto, sappiamo tutti che uno che i magistrati impegnati in questa lotta dicono e affermano che il metodo per sconfiggere questa organizzazione colpirne nei beni, no? Colpirne proprio i patrimoni. Allora è evidente che quando si innesta un meccanismo per cui le associazioni costituendosi parte civile possono ovviamente intaccare questi patrimoni attraverso richieste di risarcimento danno, che in questo caso è stata, diciamo, di una cifra abbastanza simbolica, ma in alcuni casi potrebbe essere anche di cifre molto importanti, è chiaro che è evidente che non solo si innesta un meccanismo che tocca l'aspetto cogente dell'interesse economico, ma si innesta un meccanismo che è anche psicologico, perché l'ndranghetista comincia a pensare che qualcuno sta alzando la testa e quindi bisogna di mettere sotto controllo il territorio. Certamente, certamente. È la reazione che è naturale, connaturata all'azione stessa. Però io voglio dire un'altra cosa. Noi prego. E Pastore ne accennava poc'anzi. Noi ci aspettiamo le reazioni come gli imprenditori che hanno reagito alle tentate estorsioni, per esempio in provincia di Cosenza. Negli ultimi mesi, da quando è partita la campagna Non Pago il Pizzo, 4 imprenditori hanno denunciato affermando io aderisco a questa campagna e mi rifiuto di pagare il pizzo. C'è quindi una presa di coscienza forte della classe imprenditoriale calabrese della necessità di sconfiggere questo fenomeno che è un fenomeno che limita fortemente la capacità di poter fare impresa. Assolutamente. La libertà di impresa e la dignità dell'imprenditore. Certamente. Allora, viva la Calabria onesta, possiamo gridarlo. Ringrazio i miei due ospiti, Umberto De Rosa, presidente di Confindustria Calabria, e Renato Pastore, presidente di Confindustria Cosenza. Ringrazio in regia Paolo Corleoni, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo. Augurandovi una buona giornata, vi dà appuntamento a domani. We'll be right back.